cantare il mutato balbuziente. Questa è la rumba che tutta la gente vi canterà co-co-co-co-co. Questa canzone destinata per chi ama, questa canzone di calma e sentimento, è il corazon mio allegro che io me siento. Canción.